ma bisogna fare un conto. Se ricuso, il palo è pronto. E se accetto, è mio dovere di portargli le candeliere. A Taddeo che vivi è questo, a Taddeo che vivi è questo. Ma quel palo, ma quel palo, Taddeo, che ho da far, che ho da far, che ho da far. Caibacanzinio, io presto, non vi voglio disgustar. Caibacan, signor, io resto, non vi voglio, non vi voglio disgustar, no. Caimatan, signor, io resto, caimatan, signor, io resto, non vi voglio disgustar, non vi voglio disgustar, non vi voglio disgustar. Thank you. già ci sei, un colpetto, mi di casca, turco, caro, caro, caro, caro, caro, un colpetto, un colpetto, un colpetto, di casca, turco, caro, caro, caro, caro, caro, un colpetto, un colpetto, un colpetto, di casca, che colpa è mai costei, turco, caro, già ci sei, già ci sei, già ci sei, sale un uomo che mi ha, un colpetto, un colpetto, un colpetto, di casca, turco, caro, caro, caro, caro, caro, un colpetto, un colpetto, un colpetto, di casca, turco, caro, io non resisto più. Questa Isabella è un incanto. Io non posso più stare senza di lei. Andate e conducetela. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Ti presento di Taddeo, Caimacane, ti presento, ser Taddeo, Caimacane. Faccia prendi quanta stima, dice pacia Mustafa, faccia prendi quanta stima. Faccia di te faccia Mustafa. Due giocatori, vinci! Non è l'inesima! Nelle vene un poco più non mi so frenar, no, non mi so frenar, no, non mi so frenar. Sento freno, sento freno, un poco mi sento, un poco mi freno, agitato, Oh. sua boria, questa volta il bei perde la testa. Ci Augusto, tanta smania avea d'un'italiana. Ci vuol altro con le donne allevate in quel paese, ma va ben che gli impari a proprie spese. Le femmine d'Italia son disinvolte scaltre e sanno più dell'altre l'arte di farsi amare. Le femmine d'Italia d'Italia son disinvolte scaltre e sanno più dell'altre l'arte di farsi amare e sanno più dell'altre l'arte di farsi amare. Nella galante l'ingegno han raffinato, l'ingegno han raffinato, e suol restar gabbato, chi le vorrà gabbar. Le femmine d'Italia son disinvolte scaltre, secondare? Non puoi, per patto, già saprai chi son io. Non siete il signor zio? Ti pare? Come, come? Tu sai quel che più forte ignorilmente, avere un qualche amante non t'ave confidato la signora. So che un amante adora, e per lui sono Kenda. Ebbene, son quel mio. Me ne consolo. Or su la tua nipote, con chi crede d'avere a che fare, preso m'avria costei, e non dei suoi babbei. Ma perdonate, ella tutto è disposta. E vi lagnate? Dici davvero? Sentite in confidenza, ella mi vada a dirvi che sposi m'amò. D'amore. Ma detto infine, che a rendervi direi sempre degno, ella fa quel disegno con gran solennità fra canti e suoni. Piana tremolar dell'amorose fati e di volervi crear so pappataci. Pappataci, che mai sento? Pappataci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, pappataci. E vuol poi, che vuol poi significar? A color che mai non disgustarsi, disgustarsi col me stesso. In Italia, che in me stesso. che ne parli? Le italiane son cortesi, nate son per farsi amar. Italiane son cortesi, nate son per farsi amar. Ma il giorno a miei paesi, anche questa è la condanna. Italiane son cortesi, nate son per farsi amar. Vi prego, adagi e adator. Fra gli amori e le bellezze, fra gli scherzi e le carezze, de dormire, de dormire e poi mangiare, adagi e mangiare, adagi e bella vita, con che piacere, poi di più non so la vita. Gli scherzi e le bella vita, che piacere, thank you. senza rischio e contesa di trarre a fin la meditata impresa. Perché ridi Taddeo, può darsi ancora che io mi rida di te. Tu impallidisci, schiavo gentil, ma se pietà di me stai il mio periglio, il mio tenero amor, se parlano al tuo cuore, patria, dov'è? Oh,

dov'è? Io farò con gran piacere tutto quel che si vorrà. Io farò con gran piacere tutto quel che si vorrà. 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 Thank you.